Salva Danaio di Deborah Rosciani. Domani i proprietari di un immobile, i proprietari di una casa, di uno stabile, di un terreno hanno una scadenza, per chi se la fosse dimenticata, è quella relativa al pagamento del saldo ICI 2010. Ma come direte, l'ICI non è stata abolita. Certo, per la prima casa niente più imposta comunale sull'immobile da 2 anni, vi ricordate bene, ma l'esenzione non è totale per tutta la platea dei contribuenti o dei proprietari. E come scriveva qualche giorno fa il Sole 24 Ore, ogni anno, come da tradizione, si ripropongono i dubbi sulle regole per l'esenzione per l'abitazione principale. Allora oggi cercheremo di ridarvi le regole guida di questa scadenza a conto di giugno e saldo di dicembre per evitare di cadere in errore anche e soprattutto nella determinazione dell'importo da pagare, perché poi sulla questione negli ultimi tempi sono intervenute tante pronunce anche per esempio da parte della Cassazione e quindi bisogna fare proprio un po' il punto della situazione, perché poi le pronunce della Cassazione confliggono qualche volta o comunque si mettono a confronto con i regolamenti comunali e quindi i contribuenti devono avere un po' di chiarezza su queste faccende. E allora noi stamattina cercheremo di farla con il nostro Luigi Rovecchio, esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, l'uomo dell'ICI, oltre che dell'IVA sui rifiuti, come un'altra volta l'ho definito, ma quella ormai sembra una situazione accantonata e persa, peraltro, per i contribuenti. Magari Luigi, buongiorno intanto. Pronto? Lovecchio, non lo sento. Non riesco a capire che cosa sia successo e adesso ripristiniamo la telefonata, speriamo di avere appunto una risoluzione del problema tecnico che ogni tanto ci si abbatte contro, insomma, però nel frattempo possiamo vedere quello che sta succedendo in borsa. Allora, stamattina abbiamo un quadro negativo che è alimentato probabilmente anche dal fatto che nelle ultime settimane, a dispetto della crisi del debito sovrano europeo, le borse sono andate abbastanza bene. Abbiamo ricordato come 2 giorni fa Wall Street abbia toccato i suoi massimi da 2 anni a questa parte. Oggi però ci si ferma perché stanno ritornando di nuovo le vendite ad abbattersi sul settore bancario, perché stamattina è ancora una volta una decisione di un'agenzia di rating a scoraggiare un po' gli investimenti. Moody's ha messo sotto osservazione per un eventuale downgrade, una riduzione di giudizio, il rating sul debito sovrano della Spagna, perché per la Spagna c'è un elevato fabbisogno di rifinanziamento nel 2011, questo lo sappiamo, ma è una necessità che rende il paese, secondo Moody's, suscettibile ad ulteriori tensioni per finanziarsi sul mercato. Già abbiamo visto quanto sono volati appunto i rendimenti in questi giorni, perché chiaramente i governi che sono in difficoltà devono riconoscere tassi di rendimento piuttosto alti per attrarre la platea degli investitori e questo naturalmente sta allertando sempre di più le agenzie di rating. Stamattina peraltro abbiamo anche un'altra notizia: i titoli di Stato portoghesi sono in netto calo, con i rendimenti sul titolo decennale in rialzo di 8 punti base al 6,64% dopo l'esito appunto del collocamento dei titoli a breve termine di questa mattina. Nell'aste il Tesoro ha dovuto quasi raddoppiare il tasso offerto dai compratori e c'è un forte calo anche per i appena citati titoli di Stato appunto spagnoli dopo la decisione di Moody's. Questo stamattina, vi dicevo, alimenta l'incertezza anche in borsa. Tutte le piazze sono in calo, Madrid perde quasi 2 punti, le altre piazze, Parigi meno 0,89, Francoforte meno 0,77, Londra meno 0,44, Milano meno 1,62% per il peso che hanno le banche, sulle quali appunto le vendite stanno arrivando copiose. Unicredit meno 3,59%, il gruppo, oltre alla tendenza europea dei titoli bancari che è negativa, ha subito anche una riduzione di giudizio da parte di JP Morgan, che ha tagliato e non solo la raccomandazione ma anche il prezzo obiettivo. E poi Monte dei Paschi meno 3,23, Intesa meno 2,83, Popolare di Milano meno 2,83, Ubibanca meno 2,55, meno 2 per Mediolanum, Mediobanca, Impregilo, Telecom per il Banco Popolare. Resiste Prismian, il gruppo sta segnando un più 0,39%, è stato presentato alla Consob olandese il documento per l'offerta sulla concorrente Draka, sulla quale si è scatenata appunto una battaglia nelle scorse settimane contro dei concorrenti cinesi di cui abbiamo tanto raccontato. Snam più 0,13, Atlantia 0, e qua abbiamo terminato la lista dei titoli che oggi si comportano meglio. Euro su dollaro a 1,3316. Vi racconto un altro caso di borsa prima di andare all'ICI. Toz oggi a Piazza Affari sta perdendo in questo momento il 9%, il gruppo ha collocato sul mercato il 10% del suo capitale attraverso una procedura accelerata d'offerta rivolta ad investitori istituzionali, e le condizioni a cui questa offerta è stata fatta sono evidentemente tali da penalizzare fortemente il titolo, è stata fatta a sconto. La motivazione: il gruppo entra nel FTSE MIB il 20 dicembre e per dare più liquidità al titolo, Diego Della Valle ha deciso appunto di collocare quest'ulteriore 10%, e questa è la reazione, anche se è prevalentemente di natura tecnica, sul mercato. Lasciamo la borsa. Luigi Lovecchio, ci siamo adesso? Sì, ecco. Luigi, buongiorno. Prima abbiamo avuto un problemino tecnico, non ci siamo sentiti. Comunque, l'ospite di stamattina ve l'ho presentato, oggi vi ribadiamo un po' quali sono le regole per essere a posto con l'ICI. Scade domani, il 16 dicembre, il termine per versare il saldo dell'imposta comunale sugli immobili, che quest'anno si preannuncia più leggero, visto che è stata eliminata l'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze. Devono invece versare il tributo i proprietari di immobili rientranti nelle categorie catastali A1, abitazioni di tipo signorile, A8, abitazioni in ville, e A9, castelli, palazzi di pregio artistico e storico. È comunque sempre possibile fruire della detrazione di 103,29 euro se la casa è l'abitazione principale, cioè quella in cui è stabilita la residenza anagrafica. Per quanto riguarda la prima casa, quella dove il contribuente ha la residenza, l'esenzione ICI si applica anche alle pertinenze dell'abitazione, come garage, box, cantine e soffitte. Qui però valgono le regole stabilite dal comune. Per cui, se ad esempio un comune ha deliberato un numero massimo di pertinenze agevolate, l'esonero ICI varrà solo per questi immobili. Per chi dovesse mancare l'appuntamento di domani, restano ancora due possibilità per rimediare, tramite il ravvedimento operoso, che consente sanzioni ridotte. Il 2,5% dell'imposta se il versamento viene fatto entro 30 giorni dalla scadenza, il 3% se si va oltre, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. 800 24 00 24, vi ricordo che questo è il numero verde che potete comporre per intervenire in diretta. Peraltro, alcune delle domande delle persone che si stanno prenotando erano proprio relative ad un eventuale pagamento in ritardo. Poi magari ribadiremo anche a che cosa si va incontro se non si rispetta esattamente la scadenza di domani per il versamento del saldo. Luigi Lovecchio, peraltro, i più solerti, proprio perché la scadenza è domani, avranno già pagato, ma qualcuno magari non ha liquidità sufficiente, può anche essere insomma che si rimanga un pochino indietro. Questo sarà un Natale un po' complesso per qualche famiglia di proprietario, anche se lì c'è rimasta sulla seconda casa, non sulla prima, quindi magari teoricamente quelli che devono pagarla forse non saranno poi in queste grandi difficoltà, ma questa è un'altra considerazione. Scrivevi sulle Sole 24 Ore di qualche giorno fa: i contribuenti quest'anno sono chiamati a fare i conti non solo con le disposizioni dei regolamenti comunali, ma anche con le pronunce della Corte di Cassazione. Ma ce ne sono state tante sull'argomento da parte della Cassazione, Luigi, nell'ultimo periodo? Sì, diciamo che le pronunce della Corte di Cassazione ce ne sono state, sono state anche di un certo numero, ma per ovvie ragioni relative alla tempistica del giudizio di Cassazione sono riferite alla normativa ante esenzione, quando per l'abitazione principale erano previste delle agevolazioni, quali l'aliquota ridotta o l'aumento della detrazione per abitazione principale. Però siccome la nozione di abitazione principale non è cambiata ante e post esenzione, è piuttosto evidente che quelle sentenze che si sono formate sulla disciplina ante esenzione mantengano validità anche post esenzione. E sono arrivati molti conflitti con i regolamenti comunali dopo queste pronunce? Ma non sono conflitti, più che con i regolamenti, con le prassi, ecco, direi io. Nel senso che i comuni magari normalmente non intervenivano nemmeno in regolamento, ma per prassi si attenevano a delle indicazioni talvolta provenienti dallo stesso Ministero delle Finanze. Mi riferisco per esempio all'ipotesi in cui l'abitazione principale consista in due unità immobiliari distinte ma contigue che vengano utilizzate unitariamente per abitazione principale. I comuni erano soliti pretendere l'applicazione dell'agevolazione Cassazione solo su di una delle unità immobiliari, non su entrambe. La Cassazione invece ha affermato il contrario. Ho capito. Allora, ricordiamo qual è il termine normativo, legislativo, Luigi, che ha stabilito che praticamente i contribuenti proprietari di una unica casa, e quindi quella è la loro prima casa, sono completamente esenti dal versamento di questa imposta? Il decreto legge numero 93 del 2008. Che è entrato in vigore a partire dal 2008. Benissimo. Allora, 800240024, numero verde per le domande. Io già tra qualche secondo devo andare a ridare la linea alla regia per la nostra prima pausa. Riesco però intanto ad introdurre rapidamente una domanda di un ascoltatore al quale risponderemo subito dopo. Antonio, dalla provincia di Napoli, buona giornata a lei. Buona giornata anche a voi. La domanda è la seguente, sempre su Licio, ovviamente c'è mio fratello che rientra domani sera dall'estero e quindi pagherà Licio il giorno dopo. La domanda è se c'è mora e di quanto è? Sì, infatti l'abbiamo spiegato poco fa, Antonio, però le ribadiamo un po' tutte le sanzioni a cui si va incontro, anche per un ritardo marginalissimo, sia a scriverci che a chiamarci, tanti ritardatari e qualcuno che per la verità non sa bene come comportarsi su questa scadenza. E ci stanno chiamando questa mattina con noi Luigi Rovecchio, esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Soprattutto, Luigi, te lo anticipo già così magari possiamo già dare un vademecum a queste persone, molti proprietari di immobili che hanno dato in affitto la propria casa e non sanno se l'ICI devono pagarla o meno. Va bene, ovviamente sì, devono pagarla perché avendo dato in affitto l'abitazione non è tra le ipotesi di esenzione. Perché immagino che l'abitazione principale sia da una parte sia situata in un immobile diverso da quello che è stato concesso in affitto, non c'è nessuna esenzione per quello che riguarda le seconde case, a maggior ragione appunto quelle concesse in affitto. Ricordo poi che l'imposta non deve essere pagata dall'inquilino, ma deve essere pagata dal proprietario o da chi vanta un diritto reale sull'immobile. Certo, quindi non è come per esempio, non lo so, il pagamento della tassa di registro per il contratto di locazione che qualche volta ci si mette d'accordo, si fa a metà. L'ICI è a carico esclusivamente del proprietario dell'abitazione, no? Giusto? Sì, esatto, non è nemmeno come la tassa rifiuti, forse è quello che ecco, può esatto, fare in danno. Esatto. Non è una cosa sulla quale ci si può mettere d'accordo con la persona che affitta. Ma Franco da Cantù ci dice che comunque, oltre al fatto che il comune, chi fa pagare l'ICI, rivendica correttamente questa imposta perché ha dato in locazione il suo appartamento, lui dice oltretutto paga una tariffa maggiorata, nel senso che non ha diritto ad alcuna detrazione, Luigi. Possibile, come pure è possibile anche che il Comune abbia deliberato un'aliquota come dire ordinaria, cioè riferita alla generalità degli immobili, particolarmente elevata, insomma, per cui è facile che le seconde case si ritrovino ad essere penalizzate. Mi permetto solo di evidenziare però che i comuni già dal 2008 per effetto di una disposizione di legge non possono assolutamente aumentare la pressione fiscale. Quindi vorrei far semplicemente così segnalare che dal 2008 le aliquote ICI non possono che essere le stesse a meno che non siano state ridotte, non possono mai essere aumentate, perché dal 2008, e questo vale anche per il 2011, i comuni hanno tutto bloccato in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, infatti. Allora, eravamo al caso, Luigi, di Antonio da Napoli, che ha il fratello che domani arriva dall'estero, arriva proprio domani sera, quindi ovviamente arrivando in tarda serata non può andare a pagare il saldo ICI come dovrebbe appunto regolarmente fare entro domani, paga dopo domani, insomma qual è la sanzione a cui va incontro, perché purtroppo una piccola sanzione gli andrà inflitta in questo caso. Sì, come avete correttamente ricordato voi nella presentazione, la sanzione è quella minima del 2,5% dell'importo versato in ritardo. Allora, andiamo ad Anna da Brescia invece, che ci permette con la sua domanda adesso di stabilire qual è la correlazione fra il versamento dell'ICI e la residenza o meno di un immobile. Anna, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia domanda semplicemente è questa. Io da aprile 2010 ho dovuto spostare per esigenze familiari la residenza in una casa in affitto in un altro comune rispetto a quello dove ho la prima casa di proprietà. Esatto. Mm-hmm. e volevo sapere se l'ICI, indipendentemente che io lo affitti o meno, sto parlando comunque di prima casa e non ne possiedo altre, se l'ICI mi è dovuta o meno. Punto. A giugno, esatto. Quindi lei non si è interessata al problema quando andava effettuato l'acconto? No. Luigi, allora che cosa possiamo dire ad Anna? Diciamo la disposizione del decreto legge 93 del 2008 che abbiamo ricordato prima ricorda che l'esenzione spetta solo per l'immobile su cui il contribuente ha la residenza anagrafica, indipendentemente dal fatto che ci sia la proprietà o non ci sia la proprietà, nel senso che occorre che per beneficiare dell'esenzione il contribuente risieda, oltre che possedere, risieda nell'immobile adibito ad abitazione principale. Quindi purtroppo in questa situazione, siccome la signora è residente in un immobile che non è suo, da quello che ho capito, mentre conserva la proprietà di un immobile che non costituisce la residenza della famiglia, si trova in una situazione in cui l'unica abitazione posseduta non è quella adibita ad abitazione principale e pertanto dovrà essere soggetta ad ICI, mentre non potrà in alcun modo fruire dell'esenzione per l'altro immobile, per la semplice ragione che non è lei il soggetto passivo dell'altro immobile, non essendone proprietaria. Quindi Anna non ha versato l'acconto di giugno, può regolarizzare adesso la sua posizione ammettendo che riesca a farlo entro domani, e in che modo può farlo? Appunto approfittando della scadenza per il saldo del 16 dicembre, ma teoricamente le deve versare tutto l'importo, praticamente anche. Sì, rientriamo nella seconda delle ipotesi che sempre voi avete ricordato in apertura, cioè una volta che sono passati i 30 giorni per regolarizzare gli omessi versamenti, si ricade nel cosiddetto ravvedimento lungo, che si può effettuare fino alla dichiarazione ICI dell'anno prossimo, quindi del 2011, per cui faccia sicuramente in tempo. In questo caso la sanzione diventa il 3%. Mi permetto però solo di fare un aggiornamento. La legge di stabilità 2011, sì, il cui numero non mi è ancora noto perché è stata approvata settimana scorsa, quindi sì, esatto, la settimana scorsa, non abbiamo ancora i riferimenti leggerati. Al comma 20 ha previsto che a partire dal 1 febbraio del 2011 le sanzioni per il ravvedimento operoso si elevano. Quindi insomma il segnale è: se si fa il ravvedimento prima del 1 febbraio 2011 si risparmia qualche cosa. Si risparmia qualcosina, quindi il suggerimento è ad Anna di regolarizzare appunto la sua posizione. Come può farlo peraltro Luigi? Perché magari Anna così adesso è stata stuzzicata a mettere testa sul problema ascoltando noi questa mattina. Deve andare nel comune dove praticamente è l'immobile della quale è proprietaria. Ma non deve andare, effettua il versamento esattamente come avrebbe effettuato il versamento del saldo, quindi col modello no, per capire chi le dice a quanto ammonta il versamento. Va bene, a quanto ammonta il versamento, l'ICI si versa in autoliquidazione, quindi in linea di principio non c'è nessuno che ti dice devi versare X, ognuno si deve fare i conti, per cui non esiste, ci può essere una specie di help, di aiuto, cioè il comune le può spiegare come effettuare, però se anche non trova nessun aiuto da parte del comune, e questo non le deve impedire di effettuare il pagamento, perché l'ICI si versa in autoliquidazione, quindi deve autoliquidarsi l'ICI dovuta calcolando questo importo aggiuntivo del 3% più gli interessi legali. No, tra l'altro era una domanda così anche perché mi ricordo che quando l'ho fatto io per la prima volta sono andata proprio sul sito del Comune di Milano che ha una procedura online per poter effettuare questo calcolo. Quali parametri si devono conoscere allora Luigi, tanto per dare qualche indicazione ad Anna? Sì, allora le procedure online sono ovviamente facoltative, questo tengo a precisarlo, per cui i comuni più efficienti magari si dotano, esatto, di questi servizi aggiuntivi, ma non è che sono servizi obbligatori, ecco. Per cui naturalmente si prende come si fa il versamento dell'ICI, si prende la rendita catastale che risulta da misure catastali o dall'atto di compravendita. Sul rogito c'è infatti. La si rivaluta del 5% e il risultato così ottenuto lo si moltiplica per 100, quello è il valore imponibile dell'ICI. che poi deve essere versato per il periodo di possesso, perché mi par di capire che la signora comunque fino ad aprile del 2010 era residente nell'immobile posseduto, quindi sì. 4 mesi, diciamo orientativamente, di esenzione le dovrebbero competere. Ricordo benissimo. Che per capire se conteggiare un mese intero oppure no, le regole dell'ICI dicono che se il possesso è durato almeno 15 giorni, si computa il mese per intero. Il mese intero. Quindi, Anna, che le dobbiamo dire? Le abbiamo dato una buona o una cattiva notizia, con l'ICI deve regolarizzarsi, ma quantomeno, appunto, avendo abitato nella sua casa di proprietà per i primi 4 mesi dell'anno, quelli le verranno risparmiati. 800 24 00 24, il numero verde per ancora le vostre osservazioni. Luigi, c'era una domanda di un ascoltatore, che è la prima che ci è arrivata al numero appunto con gli sms, che ci dice che praticamente ha un appartamento inagibile per sisma dal 2002 del Molise. È esente o meno dal versamento dell'ICI? Mi risulta strano che si sia posto la domanda solo ora, e questo tra l'altro mi ha fatto venire in mente anche la condizione in cui si trovano ancora molti proprietari di immobili, per esempio nell'area dell'Aquila colpita dal terribile terremoto dello scorso anno. Ma sì, a parte ovviamente disposizioni straordinarie di sospensione di pagamento, di esclusione di pagamento, se siamo in presenza di un immobile che non ha proprio le caratteristiche dell'immobile, in termini catastali viene qualificato come fabbricato collabente. È un termine tecnico che usano gli uffici del territorio per identificare un fabbricato che esiste, ma insomma non ha le caratteristiche minime per essere considerato fabbricato. Allora si chiede al catasto la formalizzazione di questa situazione di fabbricato collabente, il che comporta l'attribuzione di una particolare modalità di iscrizione che non prevede la rendita catastale, cioè è un'unità iscritta in catasto senza attribuzione di rendita. E allora, in presenza di una unità collabente senza attribuzione di rendita, l'importo l'ICI non è dovuta. Non è dovuta. Se invece siamo in presenza dell'inagibilità classica, cioè un immobile che per un certo periodo di tempo, per esempio, ha subito dei lavori profondi di ristrutturazione o cose di questo genere, quindi per quel periodo di tempo non è agibile, allora c'è una norma specifica nell'ICI che prevede che l'imposta venga ridotta alla metà. L'informazione in maniera completa si può pagare anche online da qualsiasi parte del mondo. Gianni, allora, se si riferisce all'ascoltatore che ci ha raccontato che suo fratello arriva domani, evidentemente non è nelle condizioni di poterlo fare o non lo vuole fare e magari paga il ravvedimento. Se si riferisce invece all'informazione che abbiamo dato sull'online, sulla ricerca dei parametri in base ai quali possiamo stabilire qual è l'importo dell'ICI che dobbiamo versare, io ho parlato prima delle condizioni in cui molti comuni mettono i propri contribuenti di poter facilmente calcolare questa cifra, ma non lo fanno tutti i comuni. Io ho parlato del comune di Milano, lo faranno probabilmente tanti altri, ma magari i piccoli non hanno messo a disposizione un servizio di questo tipo. Quindi, Gianni, non stiamo sempre a cercare il pelo nell'uovo di tutte le affermazioni, cortesemente, mi sembrava di aver dato delle informazioni giuste. Allora, da chi andiamo adesso? Chi è che sta aspettando di più? Andiamo da Alvaro, da Novara. Alvaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica tutto. Io sono proprietario di 2 appartamenti situati nello stesso condominio, ma in scale diverse e anche su piani diversi, quindi non sono confinanti. Ho sentito prima che parlavate di una possibilità di esenzione anche per la seconda casa. Io li uso entrambi come residenza principale, nel senso che vivo un pochino nell'uno e un po' nell'altro. Ah, però Alvaro, che bella vita, insomma, seconda di come si alza la mattina, va da una parte o da un'altra. Certo. E quindi beneficiare? Che sentenza è della Cassazione? Mi è sfuggita la notizia. Alvaro, le ribadiamo tutto quello che le serve sapere. Luigi Lovecchio. Sì, solo, però se voi avete il testo del mio articolo di domenica, lì sono riportate gli estremi della pronuncia di Cassazione. Sì, io ce l'ho, adesso lo cerco, eccoli qua. Allora, io ce li ho. La Cassazione ha precisato in queste 2 sentenze, che sono entrambe del 2010, la 12269 e la 3397. Ecco, adesso però per i contenuti, Luigi, mi devi aiutare tu. Sì, certamente. Per i contenuti sì, sono gli estremi che non riesco certamente a memorizzare. Per quanto riguarda i contenuti, la Cassazione ha detto una cosa molto semplice, che ai fini della nozione di abitazione principale non rileva il fatto di essere in presenza di due unità distinte, autonomamente iscritte in catasto, ma rileva unicamente la destinazione d'uso di entrambe le unità a dimora abituale del contribuente e della sua famiglia. Quindi, sulla base di questi principi, anche se io ho due appartamenti separati e distinti, se però li utilizzo tutti e due come dimora e quindi come abitazione principale mia e della mia famiglia, ho diritto alle agevolazioni. Quindi, Alvaro, guardi, se le fa più comodo, piuttosto che cercare direttamente le sentenze della Cassazione, se ci scrive, se ci dà un indirizzo email, le mandiamo addirittura anche il pezzo di Luigi Lovecchio dove sono riportate tutte queste indicazioni in maniera molto chiara e i due estremi appunto delle due sentenze della Cassazione. Due domande di due ascoltatori che ci hanno scritto invece l'indirizzo salvadanaio @radio24.it. Un ascoltatore ci racconta che sua moglie ha ereditato con i fratelli un terzo di un appartamento del padre morto ad aprile di quest'anno e a fine ottobre è stata completata, effettuata appunto la successione. La domanda è: da quale data si deve pagare l'ICI, evidentemente per l'importo di competenza, non so se per un terzo di proprietà appunto dell'appartamento, dal mese della morte del congiunto oppure dal mese dell'atto di successione, che evidentemente è il mese nel quale si è formalmente proprietari di questo terzo di appartamento, Luigi? Dalla data di apertura della successione, senza alcun dubbio, cioè la data in cui è deceduto il padre. Quindi da fine ottobre. Allora, andiamo adesso a Renato da Roma, che aspettava da un po'. Renato, buongiorno. Buongiorno. E io mi trovo in una situazione simile a quella dell'ascoltatore di poco fa, e cioè mio padre è venuto meno a ottobre e aveva una casa appunto in cui risiedeva e un'altra casa invece in affitto. Sì. Io mi accingevo appunto a fare i versamenti come di consueto per la seconda parte dell'anno, perché lo seguivo io questa cosa, e mi è venuto in mente che in effetti, essendosi aperta la successione a ottobre, probabilmente mio padre non dovrà più pagare il secondo semestre del 2010, ma dovrò pensarci io con tutte regole nuove e diverse, immagino. Renato, la ringrazio per la sua domanda. Manda Luigi Lovecchio, quindi in sostanza qua stamattina ci stanno chiedendo non tanto quali sono proprio i criteri di base del pagamento di questa imposta, ma quando ovviamente sopraggiungono delle situazioni straordinarie, come ci si comporta per mettersi in regola. Sì, nel caso che è stato descritto dall'ultimo ascoltatore, il secondo semestre sarà formato da due periodi. Un periodo fino alla data di ottobre in cui il padre era in vita, che dovrà essere versato a nome del decuius, ovviamente dagli eredi, ma a nome del decuius, perché è riferito ad un periodo di possesso ascrivibile al decuius. E poi invece c'è il secondo periodo del secondo semestre, che inizia a partire dalla data di apertura della successione. Ribadisco che data di apertura della successione non è la data in cui è stata presentata la denuncia di successione, ma la data del decesso. Il secondo periodo, che invece dovrà essere versato pro quota a nome degli eredi, perché poi dipende da quanti sono gli eredi, eccetera. Alessandro da Santa Marinella ci chiede perché il comune chiede a me, cioè a lui, di pagare l'ICI su un bene demaniale che è lo stabilimento balneare. Perché c'è una disposizione di legge che è contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 504 del 92, che poi è la legge istitutiva dell'ICI, che prevede che in caso di concessione di immobili insistenti su beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario e non il concedente. Allora, io vedo che sto tentando in tutti i modi di mettere in difficoltà Luigi Lovecchio, ma non c'è nessun segreto relativo all'ICI che lo possa mettere appunto in difficoltà. Luigi, peraltro, adesso a prescindere dai casi straordinari ed eccezionali che abbiamo trattato questa mattina, in vista della scadenza di domani ci siamo dimenticati delle questioni importanti da affrontare, magari sulle regole di base che disciplinano questa imposta? Va bene, tenendo presente insomma che ovviamente siccome scade domani immagino che almeno le regole di base quelle siano note. Comunque ho già ricordato che per quanto riguarda i fabbricati si parte sempre dalla rendita catastale, la si rivaluta e poi si moltiplica per il coefficiente previsto per le varie categorie catastali. Per le unità abitative, l'ho ricordato prima, il coefficiente è 100. Ma non esistono solamente unità abitative, cioè, ci sono anche le aree fabbricabili, che sono un altro tema estremamente controverso in materia di edilizia. È che non riusciamo, Luigi, scusami, ad affrontare stamattina perché ho una nuova rubrica da qualche tempo a questa parte, adesso ce la sentiamo, scusami. INPS, per saperne di più. Eh sì, abbiamo questa nuova rubrica da qualche giorno in collaborazione con l'INPS che ci spiega quali sono le parole della previdenza, spiegarci il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, che oggi ci indica qual è la, che cos'è la totalizzazione. Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali e che non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse, comprese le casse dei professionisti, può cumulare periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le diverse gestioni, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità. I periodi, che non devono coincidere, possono essere sommati in quanto da soli non potrebbero dare diritto alla pensione per mancanza, in ognuna gestione, dei requisiti minimi. I periodi contributivi da totalizzare devono essere della durata di almeno 6 anni. Al di sotto di questa soglia temporale, è comunque possibile effettuare ricongiungimento al pagamento. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa. Per tutti coloro che ci hanno chiamato o scritto e ai quali non siamo riusciti a dare una risposta, scriveteci a salvadanaio@radio24.it, sarò un po' più educata anche nella chiusura con Luigi Lovecchio, nostro esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore sui temi dell'ICI. Luigi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie molto anche a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Grazie a tutti, da Deborah Rosciani a domani. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo